Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io ancora ci credo. E così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha detto Alex Schwarzer, l'azzurro campione di marcia, oggi in questa lunghissima conferenza stampa, la conferenza stampa fiume, perché che cosa è successo? Che per qualcuno è ricaduto di nuovo nel doping, sapete che era stato squalificato 4 anni fa alla vigilia delle Olimpiadi, adesso lui si stava ripreparando per le Olimpiadi, adesso ci saranno a Rio e sembra che appunto secondo l'autorità per il controllo del doping sia positivo agli steroidi, a degli anabolizzanti, alle sostanze appunto che rappresentano per l'appunto ancora del doping. Lui però si è difeso strenuamente oggi in questa conferenza stampa, c'era anche il suo avvocato, c'era Sandro Donati che è il simbolo praticamente in Italia dell'antidoping e che è il suo preparatore atletico, quello che lo sta accompagnando lungo questa rinascita. Hanno detto che insomma c'è probabilmente, anche se non hanno usato questo termine, un complotto dietro questa vicenda, qualcuno che ha voluto fare in modo che appunto Schwarzer fosse estromesso dalle prossime Olimpiadi, che lo stesso Donati fosse in difficoltà, perché evidentemente, ha detto Donati in questa conferenza stampa, ho pestato i piedi a qualcuno, essendo appunto da sempre uno che lotta strenuamente contro il doping, evidentemente ho creato delle invidie oppure ho insomma creato dell'ostilità in qualcuno. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo magari più tardi, e però poi parleremo fra i molti argomenti anche di Brexit. Oggi siamo alla vigilia, domani in Gran Bretagna si vota questo voto tanto atteso, il referendum per il quale 46 milioni di britannici devono decidere se rimanere dentro l'Europa oppure lasciare. Quali sono le ripercussioni in Europa ma anche nel resto del mondo, quali potrebbero essere le conseguenze sulla Gran Bretagna stessa, ne parleremo, ci collegheremo direttamente con Londra. Intanto, a proposito di Europa, vi chiedo questo: comunque voti domani la Gran Bretagna, ci sarà un lungo speciale qui a Radio 24, comunque voti, è certo che qualcosa in questa Europa deve cambiare, non ha dimostrato di funzionare granché finora, no? Con tutti questi litigi, con questa mancanza di una politica comune nei confronti dell'immigrazione e di tante altre sfide continentali e mondiali. Secondo voi quindi l'Europa dovrebbe cambiare? In che direzione dovrebbe cambiare? In che modo l'Europa dovrebbe cambiare, al di là che la Gran Bretagna resti o non resti? Come sempre ci sono due canali privilegiati per voi per interagire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, SMS, 349-238-6666. Mentre voi riflettete, vi racconto come sempre la giornata in sintesi. Brexit, domani la Gran Bretagna vota il referendum per decidere se restare o meno in Unione Europea, chi è fuori è fuori, non si tratta più, fa sapere il Presidente della Commissione Europea, Juncker. Caso Schwarzer, il marciatore azzurro trovato di nuovo positivo al doping, ma lui insieme al tecnico e all'avvocato si difende. Qualcuno non vuole che io vada a Rio, dice, e scatta la denuncia contro ignoti. Roma, Virginia Raggi proclamata sindaca della capitale, fascicolo in procura intanto sulla sua consulenza all'ASL, Appendino già al lavoro a Torino, sul tavolo nomine e verifica di bilancio. Renzi intanto rilancia dopo il voto, dice dobbiamo capire dove fare meglio. Stepchild adoption, sia della Cassazione all'adozione del figlio biologico del partner nella coppia dello stesso sesso, se nell'interesse del minore. Immigrazione, l'Unione Europea trova l'accordo, nascono nuove guardie di frontiera, intesa in tempi record per salvare Schengen. Maturità, oggi il compito d'italiano, tra le tracce Umberto Eco e i 70 anni del voto alle donne. Lago d'Iseo, la passerella dell'artista Cristo sarà chiusa di notte. Euro 2016, a Lille l'Italia sta incontrando l'Irlanda in questi minuti, ma l'attenzione è già addirittura sul match con la Spagna. Partiamo quindi dalla Gran Bretagna e da questa vigilia trepidante con tutta l'Europa, ma anche il resto del mondo, che guardano al voto di domani. 46 milioni di britannici, vi dicevo, sono chiamati a votare il referendum per la Brexit. Tra poco, per questo vi dicevo, ci colleghiamo con Londra, e due sondaggi intanto danno in testa, due sondaggi pubblicati in Gran Bretagna, la Brexit in testa sul filo proprio di lana e di poco. E siamo al caso Schwarzer, il marciatore azzurro trovato di nuovo positivo al doping. Che cosa è successo? Una festa oggi al Quirinale, una festa per la consegna delle bandiere, della bandiera italiana alle due atlete, due donne per la prima volta che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di Rio, la nuotatrice Federica Pellegrini e la sprinter Martina Caironi. Una grande festa che è stata guastata da questa notizia di un nuovo controllo positivo al doping per il marciatore Schwarzer, oro nella 50 km a Pechino. Vi ricordo che aveva appena poi scontato una squalifica. Lui insieme però al tecnico e all'avvocato si è difeso in questa conferenza stampa. Dice: qualcuno non vuole che io vada a Rio, e scatta la denuncia contro i noti. Sentiamo Schwarzer. Come 4 anni fa sono di nuovo qua a metterci la faccia, però oggi non ci saranno nessune scuse. Io vi posso giurare che qua si andrà in fondo. Si andrà in fondo perché io ho investito troppo in questo ritorno. Tutto quello che ho fatto in questi 4 anni lo rifarei. So benissimo che un atleta che è già stato trovato positivo per qualcuno ha poca credibilità, però io spero che con queste persone abbiate, prima di scrivere delle cose forse non tanto vere, la correttezza di pensarci due volte. E ora sentiamo il suo avvocato. Nei confronti di Alex ci sono questi episodi assolutamente non trasparenti, profondamente sbagliati, e quindi con tutte le nostre forze cercheremo che venga a galla la verità. Alex non può accettare di essere adesso rimesso in discussione con una vicenda nella quale non ha assolutamente nessuna responsabilità. Alex in questa vicenda non c'entra. E come vi spiegavo, l'ha difeso con forza anche il suo preparatore atletico Alessandro Donati, simbolo da anni dell'antidoping. Considerando il passato, Alex Schwarzer è l'identikit perfetto dell'atleta che si dopa all'insaputa dell'allenatore o di coloro che gli sono accanto. Quindi quale migliore pretesto avrei avuto per abbandonarlo in questo momento? Magari facendo la figura di quello che non si era accorto, così come era successo per coloro che lo avevano seguito in precedenza. Questo non accadrà mai. Quindi ha detto Donati: non lo lascerò mai. Intanto passiamo alla politica. Il presidente del Consiglio e segretario del PD Matteo Renzi fa il suo punto dopo la sconfitta del partito ai ballottaggi. Si rivolge al suo partito Matteo Renzi, un partito alle prese con un forte dibattito interno dopo la delusione dei ballottaggi a poco meno di 48 ore dalla direzione. L'esito delle comunali non si deve minimizzare, è vero, ma non si può nemmeno drammatizzare, scrive Renzi nella E-News. In molti mi chiedono di ascoltare con attenzione il messaggio di queste amministrative. Accolgo volentieri il suggerimento, penso utile che il PD e il governo cerchino di capire come e dove possiamo fare meglio. La discussione nel PD, ricorda però Renzi, non può essere rimpiazzata dalla classica polemica sulle poltrone in segreteria o sul desiderio delle correnti di tornare a guidare il partito. Parliamo, certo, ma con gli italiani e degli italiani, non dei nostri equilibri congressuali. Il presidente del Consiglio chiama infine alla mobilitazione per fare spiega del referendum costituzionale, un grande momento di confronto democratico sul merito di una riforma che è semplicemente fondamentale per il futuro dell'Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto l'ufficio centrale elettorale del Tribunale di Roma, nella persona del presidente Francesco Oddi, ha proclamato oggi Virginia Raggi sindaca di Roma. Raggi ha fatto la sua prima uscita in fascia tricolore alla Pontificia Università Lateranense per la celebrazione giubilare degli uomini e delle donne impegnati nelle istituzioni. Come si sente? Le han chiesto: sono onorata di poter servire la mia città. Questo è stato il suo primo commento al suo arrivo. Il Tribunale di Napoli, questa notizia è arrivata poco fa, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato a 4 anni di carcere per corruzione Nicola Cosentino, ex sottosegretario del PDL. Per Cosentino, che ai domiciliari si tratta della prima condanna nell'ambito dei vari processi in cui è imputato, era accusato di aver corrotto un agente della penitenziaria in servizio al carcere napoletano di Secondigliano, Umberto Vitale, già condannato in sede di rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di carcere. E parliamo di stepchild adoption, sì della Cassazione all'adozione del figlio biologico del partner nelle coppie dello stesso sesso, se nell'interesse del minore. E ne parleremo Più tardi seguiremo nel senso che cercheremo direttamente la senatrice Cirinnà, Monica Cirinnà del PD, che è la relatrice del disegno di legge sull'unione civile, della legge dell'unione civile che è passata in Parlamento, vi ricordate, a maggio scorso. Adesso intanto passiamo al tema dell'immigrazione, raggiunto in Europa l'accordo sulle guardie di frontiera. Da oggi l'Europa tratta la protezione delle sue frontiere come una missione comune di solidarietà. Parola del presidente della Commissione Juncker, soddisfatto per l'accordo finale sull'Agenzia delle Guardie di Frontiere e Guardacoste europei. Un'intesa che dimostra, dice, come l'Europa è capace di agire in modo veloce e deciso per affrontare le sfide comuni. L'accordo risponde di fatto alle richieste del vertice dei leader dei 28 di concludere negoziati sul dossier prima della fine della presidenza di turno olandese. Le guardie di frontiera interverranno quando uno Stato membro non stia mettendo in atto le misure necessarie per difendere i confini esterni o quando la pressione migratoria rischia di mettere in crisi l'area Schengen. Saranno operative da quest'estate, assicura il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. It can be up and running already this summer. E intanto sulla questione del Brennero cerca di smorzare i toni il cancelliere austriaco Christian Kern. Sui controlli al confine non ci sono difficoltà, dice, perché l'Italia ha gestito i flussi migratori in modo eccellente, quindi molto rumore per nulla. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso non vogliamo sbattere il mostro in prima pagina. Questa è la vicenda, il caso terribile della bambina Maria che è stata violentata e uccisa nel Beneventano. Non vogliamo sbattere il mostro in prima pagina, ma intendiamo scoprire la verità e c'è bisogno di tempo e di professionalità. Questo l'ha detto il procuratore della Repubblica di Benevento, Giovanni Conso, che coordina le indagini sulla morte della piccola Maria, rinvenuta appunto cadavere domenica notte. Prima di morire Maria si è difesa, prima di finire in quella piscina Maria ha lottato. Questo sembrano dire i graffi trovati sulla schiena della piccola, o forse parlano degli abusi che la bimba romena di 10 anni ha subito, a conferma di quanto già l'autopsia aveva rivelato. Dettagli che stordiscono ora la piccola comunità di San Salvatore Telesino nel Sannio, dove sono perfettamente integrati i 400 romeni qui residenti, come i genitori della bimba o come l'operaio ventenne, per ora unico indagato. Le indagini proseguono con l'esame degli abiti di Maria, con l'interrogatorio dei genitori per ricostruire le 5 ore dalla scomparsa della bimba al ritrovamento del corpo, e proseguono ancora con le verifiche al racconto dell'indagato, perché non vogliamo il mostro da sbattere in prima pagina, ma vogliamo scoprire la verità, risponde il procuratore di Benevento Giovanni Conso alle domande di giustizia dei genitori e dell'intera comunità sannita. Chissà parli è l'appello di Don Franco Pezzone dalla casa dei genitori di Maria, dove fino a qualche giorno fa entrava regolarmente pure l'altro romeno, ora sotto accusa. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro caso di cronaca di cui si è parlato molto, c'è una svolta, in questo caso dell'assassino di Gloria Rosbock, la professoressa di Castellamonte, strangolata e gettata in un pozzo dall'ex allievo Gabriele De Filippi. Ha chiesto De Filippi, a sorpresa, di essere interrogato, e davanti al procuratore capo di Ivrea avrebbe confessato, avrebbe detto: non voglio più uscire dal carcere perché fuori ci devono stare gli innocenti, dentro i colpevoli come me, così avrebbe detto il 22enne recluso alle Vallette di Torino dal 19 febbraio scorso. E poi un'altra vicenda che ha avuto una svolta: una donna che era stata trovata morta nel suo appartamento a Roma, per quasi 10 ore ha sostenuto che a uccidere la madre era stato un ladro entrato in casa con le chiavi rubate alla donna qualche giorno fa, poi messo alle strette dalla polizia. Lorenzo Borghi, 24 anni, ha confessato di aver assassinato la donna, la madre, Paola Borghi, di 65 anni, all'alba di oggi, nell'appartamento dove vivevano insieme in via Enea all'Appio San Giovanni. Erano anni che pensavo di farlo, ha detto. Prima prova scritta della maturità oggi per oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle superiori, 7 le tracce tra cui scegliere, identiche per tutti gli istituti. Domani la seconda prova, quella dell'indirizzo. Ho scelto l'ambito scientifico-tecnico riguardante i viaggi nello spazio. Io ho fatto un'analisi del testo, però mi sembrava abbastanza facile. Io ho scelto quella di ambito socio-economico sul PIL. La tipologia artistico-letteraria. C'era il rapporto padre-figlio, mi sembrava la cosa più adatta a me. Ogni studente troverà una traccia vicina alla propria sensibilità, aveva detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. E così è stato. Per l'analisi del testo era nell'aria un brano di Umberto Eco, scelto però solo da 6 studenti su 100. Grande successo invece per la traccia di ambito storico-politico sul valore del paesaggio, preferita dal 23% dei candidati. Molto apprezzati anche il tema di ordine generale sul concetto di confine, il saggio breve di ambito tecnico-scientifico sui viaggi nello spazio, spazio e quello di ambito artistico-letterario sul rapporto padre-figlio. La mente degli studenti, però, è già alla seconda prova di domani, diversa a seconda degli indirizzi di studio, tra i licei, greco al classico e matematica allo scientifico. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche di arte, perché il prefetto di Brescia, Valerio Valenti, annuncia lo stop alle notti sulla passerella di Cristo, dell'artista Cristo, che ha fatto tanto successo sul lago di Iseo. Da mezzanotte alle 6 sarà chiusa al pubblico, ha spiegato Valenti. Viene così accolta una doppia richiesta, aggiunto, dal comune di Montisola, che ha bisogno di tempo per la pulizia del paese, quella dell'organizzazione di floating piers, cioè di trasbordare insomma i turisti, che deve effettuare operazioni di manutenzione. Per quanto riguarda il calcio, invece, noi ci trasferiamo direttamente in Francia dal nostro Dario Ricci per la partita Italia-Irlanda. Dario, sei con l'entusiasmo alle stelle? Buonasera da Lille, siamo al 16° del primo tempo, risultato ancora di 0-0 tra Italia e Irlanda. Come ben sai Roberta, partita ininfluente per gli azzurri, già certi del primo posto nel gruppo, e tutt'altro peso invece per gli irlandesi, ancora in corsa per la qualificazione. Conte ha fatto ampio ricorso al turnover, ma ha fatto partire titolare sia Bonucci che Thiago Motta, due giocatori molto importanti per il nostro schieramento, che sono però entrambi già in difficoltà, cioè sono già stati ammoniti. Nel caso di ulteriore ammonizione potrebbero saltare per squalifica l'importantissimo ottavo di finale di 27 giugno a Parigi contro la Spagna. Staremo a vedere. Per ora più intraprendenti gli irlandesi, che sono andati vicino al vantaggio al nono con un bel sinistro dal limite di Hendrick, fuori di pochissimo dalla porta questa sera, difesa da Sirigu e non da, come d'abitudine, dal capitano Gigi Buffon. Quindi il 17° di gioco. Dimmi, caro Dario, dicevo, quindi ci ricordavi che è ininfluente che vinca l'Italia, che perda o che pareggi, passa lo stesso il turno, comunque va giocata la partita. Passa lo stesso come prima del girone. Tra l'altro vado anche a sottolineare il clima molto bello, molto sereno intorno alla partita, per merito di entrambe le tifoserie. Anche in questa occasione, come era capitato con i belgi, gli irlandesi hanno applaudito a lungo l'esecuzione dell'inno di Mameli. Insomma, bevono parecchio, però lo fanno con simpatia, quindi sono dei compagnoni. Gli dà dei buoni effetti, meno male. Grazie Dario Ricci, poi ci ricolleghiamo naturalmente con la Francia e con Dario per vedere come prosegue la partita. Intanto volevo vedere come proseguono i vostri messaggi che arrivano sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e WhatsApp. E la domanda che vi facevo questa sera, visto che siamo alla vigilia della Brexit, del referendum con cui la Gran Bretagna domani voterà se intende o meno restare in Unione Europea, e abbiamo, insomma, sappiamo un po' tutti che l'Europa non funziona granché, che manca una politica comune su tanti piani per affrontare soprattutto le sfide più grandi. Voi come pensate, deve cambiare secondo voi l'Europa e in che direzione, in che modo? Per esempio Ilaria dice: buonasera Roberto, intanto auspico che non escano dall'Unione Europea. Certo, ci sarebbe molto da cambiare, inizierei con controlli stringenti sui progetti destinatari di fondi europei, perché a volte si finanziano cose assurde o al contrario non sono neanche in grado di spenderli quei fondi. Ogni tanto succede. Poi Simone: più democrazia, solidarietà tra i paesi, politica estera e economica comune, bisogna andare avanti altrimenti crolla tutto e ne pagheranno le conseguenze i giovani. Voi cosa ne pensate? Continuate a scriverlo, intanto viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo di nuovo insieme, Roberta Giordano sempre con voi, e prima di affrontare il prossimo argomento, che è appunto la Brexit, ci colleghiamo direttamente con Londra. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti, visto che non tutti accendono puntualmente alle 21, ma prima ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ve lo ricordo ogni tanto che qualcuno va ancora a cliccare su pagine di vecchi programmi miei, invece questo è Effetto Notte trattino Roberta Giordano, è qui che dovete scrivere le vostre opinioni, aderire senza indugio se volete, e poi al 349-238-6666 per invece sms e WhatsApp. Quindi vi chiedo: l'Europa secondo voi, al di là di come vada il voto domani in Gran Bretagna, dovrebbe cambiare? Che cosa dovrebbe cambiare? In che direzione? Giuseppe scrive: guardando l'Inghilterra come il bastione del liberismo antisocialista per tradizione, definendo anglosassone l'egemonia finanziaria, Forse con la Brexit si aprono nuove opportunità per una comunità più sociale, dice, considerando l'indole socialdemocratica del nord e l'esigenza di socialità del sud e la volontà di collaborare della Russia. Fa tutta un'analisi geopolitica, Giuseppe. Poi invece Luciano scrive: innanzitutto bisogna fare delle buone politiche che aiutino le persone fisiche, ridurre gli sprechi, perché le tasse che paghiamo servono pure per mantenere questa Europa, che a me non piace, fare una politica economica comune per tutti gli stati. Andiamo sulle notizie principali. La Gran Bretagna domani vota sulla Brexit, il giorno del dentro o fuori, e Juncker, presidente della Commissione Europea, dice: non si torna indietro, comunque vada. Renzi rilancia dopo il voto: ora bisogna capire dove possiamo fare meglio, verso la direzione del Partito Democratico, che c'è, vi ricordo, venerdì. Poi Virginia Raggi è stata proclamata ufficialmente sindaca oggi, cioè intanto è stato aperto questo fascicolo in procura sulla sua consulenza all'ASL, mentre Chiara Appendino a Torino è già al lavoro sul tavolo nomine e verifiche di bilancio. Sì alle stepchild adoption se nell'interesse del minore, questa è la sentenza di oggi della Cassazione, e dalla parte della politica non solo nuove polemiche sulla Cirinnà, senatrice che poi sentiremo più tardi. Umberto Eco e voto alle donne, alla maturità, questi alcuni dei titoli, oggi è la maturità con il tema per tutte le scuole, per tutti, appunto, l'ultimo anno delle superiori. L'Unione Europea trova l'accordo, nascono le nuove guardie di frontiera, è un'intesa in tempi record per salvare l'accordo di Schengen. E poi gli azzurri in campo contro l'Irlanda, per il momento 0-0. Europa 24 notte. Allora, subito l'argomento europeo, come sentite dalla sigla, per eccellenza, argomento europeo per eccellenza in questi giorni, ma anche di rilevanza mondiale naturalmente per quelle che potrebbero essere le eventuali ripercussioni. Sto parlando naturalmente della Brexit e del voto di domani, sono 46 milioni i britannici che andranno a votare, che decideranno se restare o meno nell'Unione Europea. Un voto attesissimo e anche temuto, appunto, dicevo, per queste eventuali conseguenze, anche sulla Gran Bretagna stessa, sugli altri paesi europei e persino su almeno parte del resto del mondo. Dagli Stati Uniti arrivano ancora appelli, sono gli ultimi appelli questi delle ultime ore, all'unità, a rimanere dentro l'Unione Europea. Secondo due degli ultimi sondaggi pubblicati in Gran Bretagna, la scelta della Brexit, cioè dell'uscita dall'Unione Europea, è in testa proprio di strettissima misura, sul filo di lana. Ne parliamo con il nostro Sergio Nava, che è a Londra, inviato a Londra in questo momento. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Quindi attesa, timore, magari per qualcuno appunto una speranza, ci ricordi innanzitutto chi sono coloro che in Gran Bretagna avrebbero più interesse a uscire dall'Unione Europea e quelli che invece vogliono rimanerci? Diciamo che sono stati fatti degli studi giustamente sull'elettore tipo della Brexit e quello invece del campo del restare. L'elettore tipo della Brexit è un po' più avanti con gli anni, quindi tendenzialmente più anziano, pensionato, e vive soprattutto nel centro e nel nord, nord-est in particolare, l'area più depressa anche storicamente della Newcastle, Sunderland, Middlesbrough, il nord-est inglese, ma non solo, anche comunque nel centro del paese. Mentre invece l'elettore tipo della che vuole restare, diciamo, restare in Europa è tendenzialmente urbano, quindi sta nei grandi centri. È scozzese, possiamo dire, la Scozia è tra i paesi, tra gli stati della Gran Bretagna, che poi è una federazione più filo europei, e tendenzialmente anche londinese, la zona di Londra, proprio perché è la più grande metropoli del paese, attira, cioè si connota molto di più per una tendenza filo europeista, è tendenzialmente giovane ed educato e formato, quindi universitario o comunque con un titolo universitario. Sono due Gran Bretagne, se vogliamo, una un po' più aperta al mondo, un caso a Scozia emblematico, i suoi legami storici con la Francia, no, ad esempio, e più multiculturale, e una invece la cosiddetta Little Britain, la piccola Gran Bretagna, che ha paura, vede questa globalizzazione avanzare, vede quest'onda di migranti arrivare, si parla insomma di 3 milioni di immigrati, e cerca di rifuggire in un passato, alla fine, di indipendenza, di isolamento dall'Europa, il famoso detto nebbia sulla Manica, il continente isolato, no? E quindi tutto sommato queste sono le due Gran Bretagne che in qualche modo si affronta. Domani si affronteranno. Sergio, cioè, il Presidente della Commissione Europea ha lanciato il suo avvertimento, ha detto fuori vuol dire fuori, cioè se decidono di rimanere fuori non ci saranno spazio, non ci sarà spazio per ulteriori trattative, perché poi tra l'altro la Gran Bretagna, lo ricordiamo, a febbraio aveva firmato un accordo per avere già, che prevedeva alcune concessioni, no, a Londra. Sì, un accordo, diciamo, che prevedeva soprattutto... Simbolo di questo accordo era il freno sui benefit, sui sussidi ai migranti intraeuropei, ricordiamo, cioè parliamo soprattutto di migrazione all'interno, libero movimento all'interno dell'Unione Europea, si poneva un freno di 4 anni in caso di ondate eccezionali di migrazione. C'era anche un capitolo che riguardava i sussidi ai figli di questi immigrati, però vivono nel paese d'origine, cioè se un immigrato viene qui in Gran Bretagna ha diritto a dei sussidi per il bambino o la bambina rimasta in Polonia piuttosto che in Italia o in altri paesi. Questo resta, però indicizzato al costo della vita locale, quindi ovviamente più basso, parliamo di un paese dell'est Europa. E poi ci sono, Cameron negoziò anche il diritto a stare fuori da un'unione più integrata, uno status per la City diverso, insomma una maggiore competitività dell'Europa, una tendenza a insistere su una competitività maggiore di un continente che spesso rimane un po' così frenato da tanti lacci burocratici che insomma la stessa Bruxelles a volte esagera un po' nel mezzo. Però ecco, quello dicevi tu prima, Roberta, cioè questa posizione Juncker non ha fatto riflettere la posizione franco e soprattutto tedesca, cioè la Germania nelle ultime settimane è stata molto chiara sul dire uscite, decidete di uscire, però a questo punto sarete fuori al mercato unico, che è quello che veramente interessa alla Gran Bretagna. Infatti, a questo proposito, Sergio, ci dici proprio in poche parole, proprio in estrema sintesi, quali potrebbero essere le conseguenze, in poco tempo se riesci, sia per la Gran Bretagna sia per il resto dell'Europa, senza andare agli Stati Uniti, perché visto che continuano ad arrivare appelli anche, diciamo, anche dalla Yellen, dalla Presidente della Banca Centrale Americana. Diciamo che la cosa più interessante di tutta questa questione di Brexit riguarda proprio l'incertezza che c'è sul dopo, poiché l'unica, tra virgolette, paese a uscire è stata la Groenlandia anni fa, però la Groenlandia perché si staccò dalla Danimarca, e poi la Groenlandia insomma è una situazione di poche migliaia di persone, quindi non fa poi tanto pesco, ha fatto poi degli accordi solamente di pesca con l'Europa, qui parliamo di qualcosa di molto più grande, la quinta economia mondiale. Cosa può succedere? Innanzitutto può succedere che Cameron non comunichi subito l'uscita dall'Unione Europea e prenda tempo per cercare di spuntare maggiori margini negoziali. Questo può essere una tattica interessante, nel senso non far scattare subito l'articolo 50 dei trattati che avvia una procedura di uscita, ma traccheggiare, aspettare e provare a spuntare condizioni. Proprio per questo Juncker e la Germania e la Francia dicono no, se uscite si attiva subito e si parte e si cerca di arrivare a una conclusione rapida dei negoziati, che dovrebbero durare 2 anni ma forse anche di più. L'obiettivo è quello di, come dire, far uscire la Gran Bretagna e ridefinire un po' il contesto di relazioni dal punto di vista commerciale, dal punto di vista anche di immigrazione, e di tutto ciò che in realtà regola i rapporti tra paesi, tra l'Europa e quello diventerebbe un paese terzo. Sergio, senti, gli effetti, però, sì, purtroppo ci dobbiamo lasciare, domani, chiaro, tanto l'ho ricordato, ne parleremo ancora qui effetto notte, poi ci sarà uno speciale di fino a mezzanotte, no, sulla Brexit, perché poi fino a luna, anzi, perché poi ci sarà il voto in corso, arriveranno le prime notizie. E tra l'altro la Presidente della Camera oggi, Boldrini, ha detto, come pensano anche molti, che i britannici rimangano o no nell'Unione Europea, ci saranno comunque delle conseguenze, perché mai nessuno prima ha trattato su base bilaterale, come dicevamo prima, no? Solo la Gran Bretagna con l'Unione Europea, come ha fatto Cameron, e questo ha un po' attaccato i principi fondativi dell'Unione Europea. Comunque domani avremo sicuramente molto spazio per parlarne, siamo ancora proprio... dentro l'evento di rilevanza internazionale che succederà. Grazie intanto, Sergio Nava da Londra. Ciao Sergio. Grazie a voi, ciao. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Siamo in Europa, ma quella del pallone di Euro 2016, e riaggiungiamo di nuovo in Francia il nostro Dario Ricci per vedere se ci sono aggiornamenti tra Italia e Irlanda. Novità? 30° di gioco a Lille, Roberta, ancora 0-0 tra Italia e Irlanda. L'Irlanda che continua ad essere intraprendente, tant'è che al 21° c'è stato il bel colpo di testa di Murphy e una altrettanto bella parata di Sirigu, un calcio d'angolo. Seguiamo ora questo calcio d'angolo per gli irlandesi, ma interviene l'arbitro Ategan. Probabilmente il calcio di punizione e il calcio d'angolo, scusate, andrà ripetuto, visto che è rimasto a terra il numero 9 irlandese Long. Una curiosità che prima non ti avevo detto, lo sai sì che in questo stadio il Philippe Mauroy giochiamo questa sera col tetto chiuso, perché praticamente lo stadio è avveniristico, ultimo modello mi viene da dire, tetto chiuso per proteggere il campo, che ahimè è però veramente un campo di patate, tant'è che il UEFA ha già preannunciato che verrà rizzollato subito dopo questa partita. Seguiamo il calcio d'angolo, sul secondo palo il colpo di testa di Taffi, un po' troppo il lungo, finisce sul fondo, ancora 0-0. Grazie Dario Ricci, a tra poco, a più tardi. Intanto adesso ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione, ma volevo dare ancora spazio a alcuni vostri messaggi sull'Europa, su che strada deve prendere l'Europa, come deve cambiare perché sia un'Europa anche più solidale, che trovi maggior consenso tra i popoli europei. Gianluca dice: deve cambiare l'atteggiamento di chi fa parte dell'Europa, l'Italia non ne fa parte, vive l'Europa come una grande madre che pone veti, noi non la facciamo, la subiamo l'Europa, follia, il nostro vittimismo è disarmante, noi non siamo costruttivi, dice. Danilo scrive: l'Europa non deve cambiare né prendere alcuna direzione, i popoli, come sosteneva il Che Guevara, si liberano da soli. 349-238-6666 per le vostre opinioni, se volete mandare tramite WhatsApp o SMS, oppure scrivete direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, perché sapete, programma internazionale per essere aggiornati costantemente su quello che succede in Italia, quindi anche dall'estero. Gradiscono naturalmente essere informati, avere un quadro esauriente sulle notizie italiane, ma anche dal mondo naturalmente. Abbiamo appena finito di parlare di Brexit dopo il riassunto della giornata. Adesso tra pochissimo invece tratteremo un altro argomento che riguarda una sentenza italiana, ma diciamo che riguarda una questione che è già risolta in molti altri paesi. Voi continuate con i vostri messaggi intanto al 349-238-6666, SMS e WhatsApp, e anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito del fatto di essere alla vigilia del voto di domani in Gran Bretagna del referendum sulla Brexit, vi chiedo, è ormai chiaro un po' a tutti che l'Europa così com'è non ci piace tantissimo, non è che funzioni benissimo, no? Soprattutto davanti alle grandi sfide non ha una politica economica, sociale, una politica estera comune di fronte appunto per esempio alla lotta al terrorismo, alla salvaguardia dell'ambiente, anche alla gestione di questi flussi migratori. Voi come vorreste che l'Europa cambiasse? Dato, volete che l'Europa cambi e in che direzione? Virgo scrive: l'Europa è vissuta in questi ultimi anni da noi italiani come una matrigna cattiva che ci impone delle regole a cui noi popolo italico non siamo avvezzi. D'altra parte, stringere troppo la corda fa sì che ci si disamori e si vedano solo i difetti. Poi un altro messaggio: Europa, per iniziare bisogna trasmettere a tutti che l'Europa siamo anche noi, non è un ente esterno, scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore. Poi Clotilde: se la CE, che non c'è più, è la comunità europea, l'Unione Europea, la smettesse di interessarsi delle misure degli ortaggi, delle telline eccetera, e si impegnasse a risolvere seriamente i problemi dell'immigrazione, non dando milioni alla Turchia, paese notoriamente democratico, dice, magari espellendo quei paesi dell'est che non si adeguano alle più elementari regole democratiche. Così scrive Clotilde. Voi proseguite con le vostre riflessioni su questo tema prima di affrontare qui a Effetto Notte il prossimo. Voi continuate su questo. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Brexit, domani la Gran Bretagna vota il referendum per decidere se restare o meno in Unione Europea. Chi è fuori e fuori non si tratta più, fa sapere il presidente della Commissione Europea Juncker. Caso Schwarzer, il marciatore azzurro trovato di nuovo positivo al doping, ma lui insieme al suo tecnico e all'avvocato si difende. Qualcuno non vuole che io vada a Rio, dice, scatta la denuncia contro ignoti. Roma, Virginia Raggi proclamata sindaca della capitale, fascicolo intanto in procura sulla sua consulenza all'ASL. Chiara Pendino a Torino già al lavoro, sul tavolo nomine e verifica politica di bilancio. Intanto Renzi rilancia dopo il voto, dice dobbiamo capire dove fare meglio. Stepchild adoption, sì della Cassazione all'adozione del figlio biologico del partner nelle coppie dello stesso sesso se c'è l'interesse del minore. Immigrazione, l'Unione Europea trova l'accordo, nascono le nuove guardie di frontiera intese in tempi record per salvare Schengen. Maturità, oggi il compito di Italiano, tra le tracce Umberto Eco e i 70 anni del voto alle donne. Lago d'Iseo, la passerella dell'artista Cristo sarà chiusa di notte. Vi aggiorno su Euro 2016, Italia-Irlanda ancora 0-0. E adesso torniamo a parlare della stepchild adoption, vi ricordate, l'adozione all'interno di una coppia dello stesso sesso del figlio biologico del partner, ed è un tema che è stato dibattutissimo durante il percorso parlamentare della legge, del disegno di legge sulle unioni civili. Vi ricordate che stava rischiando di incagliarsi su questa norma, poi dopo il compromesso raggiunto per far passare appunto la legge sulle unioni civili è stato quello di stralciare questo tema della stepchild adoption e di far passare soltanto le altre norme che riguardavano appunto la regolamentazione delle unioni civili. Perché torniamo a parlarne? Perché c'è una sentenza della Cassazione che ha detto di sì alla stepchild adoption, confermando una sentenza della Corte d'Appello di Roma che accoglieva una domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre con questa che era convivente, insomma una coppia di donne che aveva chiesto, quella che non era la madre biologica, di poter adottare questa bambina minore. Per i giudici, c'è anche questo principio poi espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, per i giudici la stepchild adoption non determina in astratto un conflitto di interesse tra il genitore biologico e il minore adottato e può essere ammessa sempre che alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice realizzi effettivamente il preminente interesse del minore. E in questa valutazione della Cassazione non ha rilievo l'inclinazione sessuale del richiedente, quindi quali siano le sue scelte sessuali, e la natura della relazione col partner. Inevitabilmente poi sono partite le polemiche politiche, però su questo tema vorrei sentire la senatrice Monica Cirinnà del PD, che ricordate è stata la bandiera delle unioni civili in Parlamento e più tecnicamente, più concretamente, la relatrice stessa di questo disegno di legge. Senatrice Cirinnà, buonasera. Buonasera a tutti e agli ascoltatori. Insomma, laddove la politica non riesce a esprimere delle leggi, parlo della stepchild adoption, la magistratura continua ad andare avanti comunque. È giusto che la magistratura vada avanti ove si tratta dell'interesse preminente del minore, ove si tratti dell'applicazione di una norma che esiste già in Italia dal 1983, appunto l'adozione coparentale del figlio del partner, che viene sempre e comunque applicata dai tribunali dei minorenni. Se noi l'avessimo inserita nella legge, nulla sarebbe cambiato sulla procedura, sempre il tribunale dei minori avrebbe dovuto autorizzarla. Quindi in realtà, se appunto fosse rimasta nella legge che è passata sulle unioni civili, sempre ci sarebbe stata la valutazione, come in questo caso, come sta avvenendo man mano con varie coppie di donne, per ora mi sembra, non ricordo se c'era anche una coppia di uomo, che la magistratura valuta volta per volta, caso per caso. Lo stesso sarebbe successo se fosse stata inclusa, dice lei, nella legge delle unioni civili? Certo, noi avevamo semplicemente messo nell'articolo 5 del primo testo Unioni Civili la possibilità di estendere l'adozione coparentale del figlio del partner attraverso l'applicazione della lettera B dell'articolo 44, mentre la Cassazione e i giudici continuano ad applicare la lettera D, e comunque sempre al Tribunale dei Minori sarebbe stata fatta la domanda. Senatrice Cirinnà, voi avevate detto come maggioranza, come PD in particolare, una volta passata la legge sulle unioni civili, che vi sareste presto occupati anche della stepchild adoption e di un pacchetto, diciamo, di una legge sulle adozioni più in generale. A che punto sta questo disegno di legge o questa proposta, non so? Ma il PD aveva detto, e confermo, che questa revisione completa della legge sulle adozioni, che è una vecchissima legge del 1983, sarebbe partita dalla Camera, luogo nel quale noi abbiamo i numeri più ampi per poter lavorare su questo. Quindi io come senatrice non sono in grado né di dare tempi né di dare modalità. So che la commissione d'indagine sulla partita adozioni è già avviata alla Camera. Spero che si possa fare presto e bene. è chiaro a tutti che la legge unioni civili, cioè la legge 76 del 2016, prevede nel punto 20 l'equiparazione tra coniugi uniti civilmente e automaticamente prevede nel punto 20 che le leggi in materia di adozioni restano tutte applicabili. Quindi, come vedete, nulla è cambiato rispetto a prima. I giudici ricevono una richiesta, la valutano, se il bambino ha un vantaggio nel riconoscimento del secondo genitore, danno questo riconoscimento solo ed esclusivamente pro bambino. E mi sembra, per chiudere, senatrice Cirinnà, che finora la magistratura si sia espressa a favore, no? Dicendo che queste coppie, l'adozione all'interno di queste coppie è a favore comunque del minore, quindi stanno legiferando in questo senso finora. Certo, questo ci spingerà il legislatore a riconoscere anche questa opzione al di là dei contrasti politici che erano stati sollevati, perché di fatto noi abbiamo come Parlamento nel 2013 tolto la differenza tra figli naturali e figli legittimi. È evidente che anche i bambini delle famiglie arcobaleno non possono e non devono essere discriminati per il modo in cui sono nati e non possono essere discriminati per l'orientamento sessuale dei loro genitori. Quindi l'opzione coparentale è assolutamente legittima se si va a guardare qual è l'interesse preminente del minore tra avere due genitori o averne uno solo. Quindi appunto, in mancanza di una legge, finora continuano così le sentenze. Grazie senatrice Monica Cirinnà. Grazie. Grazie. Buona continuazione. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Adesso dovremo raggiungere tra pochissimo l'allenatore di Alex Schwarzer, che oggi appunto ha tenuto questa conferenza stampa piuttosto intensa, appunto perché è di nuovo accusato di aver fatto uso di doping. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto continuo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 a proposito di cosa vorreste cambiare in Europa. Per esempio questo ascoltatore Stefano dice: voglio un'Europa più integrata, una federazione non più di stati sovrani ma di regioni simile a quella degli Stati Uniti d'America. Continuate con le vostre riflessioni. Vi ricordo intanto quali sono, prima di passare al prossimo tema, le notizie più importanti della giornata. Naturalmente siamo alla vigilia del voto in Gran Bretagna domani del referendum sulla Brexit. Intanto il Presidente della Commissione Europea Juncker avverte: non si torna indietro, chi è fuori fuori, chi è dentro è dentro. Renzi rilancia dopo il voto, voto nel senso qui delle comunali, ora bisogna capire, dice, dove dobbiamo fare meglio. Intanto parla verso la direzione Dem, del Partito Democratico, che ci sarà domani. Raggi proclamata sindaca, ci sarà venerdì, è già intanto al lavoro l'Appendino a Torino sul tavolo nomine e verifica di bilancio. Sia la stepchild adoption, ne abbiamo appena parlato, se è nell'interesse del minore, questa è la sentenza della Corte di Cassazione. E poi Umberto Eco e voto alle donne sono alcuni dei temi, quelli diciamo più di rilievo, che sono stati dati oggi alla maturità per il compito d'italiano. E poi per quanto riguarda la partita Italia-Irlanda, siamo sempre agli Euro 2016 0-0. Oggi non ci saranno nessune scuse, non devo scusarmi per nessun errore che non ho fatto, e come 4 anni fa, lì ho sbagliato, stavolta io non ho fatto nessun errore. Anzi, da un anno e mezzo, con tanta fatica, sto facendo il contrario, andando a Roma ad allenarmi da Sandro, chiedendo a lui di fare il possibile per dimostrare che il mio ritorno sia pulito. E quindi io oggi non ci sarà nessuna scusa qua. Nessuna scusa, dice Alex Schwarzer, che oggi ha tenuto questa conferenza stampa a Bolzano. Dice: nessuna scusa, perché 4 anni fa era stato squalificato alla vigilia delle Olimpiadi di Londra per positività al doping. Dice: allora ero colpevole, c'erano state le sue lacrime, vi ricordate, eccetera. Si era giustificato dicendo troppa pressione. Questa volta dice: io invece sto lavorando in modo pulito, quindi non devo chiedere scuse a nessuno. Eppure sembra che sia stato trovato positivo all'utilizzo di steroidi anabolizzanti, quindi di doping. Con lui c'erano oggi anche il suo avvocato e anche il suo preparatore atletico, quello che ha creduto nella sua rinascita, che lo sta portando in questo percorso appunto che si spera prosegua, che è Alessandro Donati, professore paladino della lotta al doping e appunto preparatore atletico di Alex Schwarz. Buonasera Donati. Buonasera a lei e a tutti. Grazie della disponibilità, visto che insomma è un giorno particolare, avete fatto la conferenza stampa più lunga della storia, fra l'altro. Sì, evidentemente. Sì, molto lunga, sì, sì. Sacco di domande dei suoi colleghi. C'era molto interesse. Allora, Donati, che cosa è successo? Voi siete tutti assolutamente convinti e lo difendete estremamente, così come si difende lui, questa volta non c'entra col doping? Ma guarda, le ragioni sono tante. La prima è il livello basso, irrisorio di questa sostanza, tale per cui nessun atleta con un minimo di, diciamo, di comprendonio in testa penserebbe mai di doparsi con un dosaggio insignificante di quel genere lì. E quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è molto più inquietante, cioè a dire, lui è stato controllato il primo di gennaio, primo dell'anno, e dopo pochi giorni c'è stato l'esito di questo controllo antidoping che è risultato negativo, cioè lui era perfettamente a posto. Quindi la Federazione Internazionale ha fatto nei giorni successivi altri controlli, sempre con esito negativo, fino a che ha elaborato un rapporto per la Federazione Italiana dicendo che Alex poteva tornare alle gare dopo la sua squalifica perché aveva superato tre controlli antidoping senza che risultasse nulla, se non che improvvisamente, 5 mesi e mezzo dopo, ritornano a prendere quel campione di urina che avevano dato per negativo e improvvisamente diventa positivo, con un dosaggio basso, basso, basso, diventa positivo. E quindi da lì praticamente inizia la procedura per squalificarlo. Quindi quello che non convince è la tempistica assurda, cioè un campione che era passato indenne ai controlli di un laboratorio molto avanzato come quello di Colonia, in realtà risulta che contiene degli anabolizzanti. Dopodiché questa positività individuata il 13 di maggio con 5 mesi e mezzo di ritardo non viene comunicata subito, ma bensì dopo un mese e 5 giorni. Nel frattempo viene lasciato che Schwarzer vada a gareggiare alla Coruña, in Spagna, dove l'ho accompagnato io, peraltro è arrivato secondo, senza che nessuno intervenisse. Quindi ecco, c'è tutta una tempistica. Quindi dice sì, una tempistica sospetta, dice lei, Donati. Ma secondo voi che cosa è successo? Cioè, si è parlato appunto, non avete parlato voi direttamente, di complotto. Cioè, qualcuno dietro manovra per non far andare davvero Schwarz alle Olimpiadi? Allora, io non ho usato il termine di complotto, infatti. Perché il complotto bisogna avere già così delle prove molto molto, ecco, qui siamo a livello di incongruenze, una serie di incongruenze. Allora, è chiaro che sono due cose. La prima è la mia storia, sempre diciamo di opposizione al doping, soprattutto istituzionale, quindi alle istituzioni, comitati olimpici o federazioni coinvolte nel doping, e quindi questo mi ha generato, con il passare del tempo, chiaramente molte inimicizie. È chiaro che sono stato visto come una persona non controllabile che andava tenuta, diciamo, a distanza. Per quanto riguarda Alex, scatta il classico meccanismo, cioè l'atleta trovato positivo, come è stato trovato lui nel 2012, diventa la preda che il sistema sportivo non si lascia scappare, perché ne prende così pochi gli atleti positivi, se pensiamo che arrivano a malapena all'1%, in alcuni anni addirittura si firmano lo 0,50% dei controlli, quindi quando gliene capita uno, su quello il sistema deve dimostrare tutta la propria inflessibilità, severità, e quindi non lo molla più. E quindi non esiste il fatto che un atleta che esce dal doping cerchi il riscatto o si alleni con un allenatore che diciamo che è stato sempre contro il doping in maniera concreta, e quindi tutti e due diventino poi come posso dire, pericolosi, perché il fatto è che Alex dopo alcuni mesi, già che io lo allenavo, ha fatto dei progressi sensazionali, fino a che è finita, come tutti sanno, campionato del mondo a squadre, dominato, dando 3 minuti e mezzo alla medaglia d'argento olimpica e l'australiano Talle. Quindi, a questo punto non lo so. Che voi avete fatto una denuncia contro ignoti, Donati? Sì, dunque l'avvocato Brandstetter non l'ha ancora presentata, credo che la presenti domani, sì, contro ignoti per, diciamo, con l'ipotesi che ci sia stata degli interventi di manomissione. Quindi ci sarebbero stati degli interventi di manomissione, secondo voi? Questa è la denuncia che l'avvocato presenta. Ecco, io le ho detto da parte mia, io parlo di, per ora parlo di incongruenze. Comunque lei appunto ci ha parlato di queste incongruenze e lei crede fermamente a questo punto, a fiducia piena in sì, Alex? Ma sì, assolutamente, perché tra l'altro una quantità di anabolizzanti di quel genere è talmente irrisoria che non serve a niente. Poi Alex è stato sottoposto a controlli prima e dopo quello ed è risultato sempre negativo, quindi come dire, sarebbe un dosaggio irrisorio preso una volta sola, tutto è ridicolo, non ha senso, capisce? Non fa parte di un ciclo di assunzione di farmaco, no? Quindi adesso la vostra speranza, Donate, è di riuscire a risolvere la questione per tempo per le Olimpiadi di Rio, ci sono ad agosto? La speranza, adesso questo ragazzo con tanta forza d'animo cerca di allenarsi, anche se è abbattuto, perché veramente finisce tutto per lui. Lui, come ha sottolineato oggi, ha sbagliato 4 anni fa, ha ammesso i suoi errori, è uno dei pochi gli atleti che ha confessato i propri errori, ma adesso lui dice io non c'entro, insomma, adesso io non vengo, c'entro, vengo colpito, vengo colpito senza nessuna responsabilità. È chiaro, è chiaro. Allora vedremo quali sono i prossimi sviluppi e naturalmente auguriamo che vadano per il meglio, professor Donati. Grazie intanto. Buonasera. E buon lavoro, buona serata. Grazie. Restiamo sullo sport, ma adesso con Italia e Irlanda. Vediamo se Dario Ricci, Monsieur Dario dalla Francia, ha da darci delle buone notizie. Dario? Ma direi che siamo su un placido 0-0, siamo nell'intervallo di Italia-Irlanda qui a Lille, anzi neanche troppo placido, perché gli irlandesi questa vittoria la vogliono davvero, ci sono anche andati vicini in un paio di occasioni al gol, al nono con un sinistro di Hendrick che fuori di pochissimo, al 38esimo, anzi al 21esimo con un colpo di testa di Marti, e lì è stato bravo Sirigu a deviare sopra la traversa in calcio d'angolo, e poi al 44esimo c'è stato un contatto più che dubbio tra Bernardeschi e McLean in area di rigore, ma per l'arbitro romeno Ategan non è stato assegnato il calcio di rigore, quindi siamo sullo 0-0, un'Italia che è andata però vicino al vantaggio a sua volta al 42esimo con un bel destro dal limite di Immobile fuori di poco. 0-0 quindi, così come 0-0 anche nell'altra partita del gruppo E, quello tra Svezia e Belgio, Roberta, due risultati, due pareggi che rimanessero così fino al 90esimo qualificherebbero al primo posto l'Italia, ma questo già lo sappiamo, e come seconda il Belgio. Comunque poi l'Italia lunedì gioca contro la Spagna, no? Mi sembra che si guardi già da allora, visto che abbiamo detto che è ininfluente il risultato di stasera, comunque al di là della passione, no? Assolutamente, assolutamente, dici bene, stiamo tutti pensando alla trasferta di Parigi del 27 giugno, si giocherà alle 18, quindi chi deve esca prima dall'ufficio oppure prendete i permessi, perché l'orario è un po' non particolare. Non la malattia, possibilmente, come succede, insomma. No, assolutamente, no, regolari permessi per godersela in tanta pace con gli amici. E sì, cosa sarà quella la partita decisiva, perché a quel punto o dentro o fuori. Si può arrivare fino ai rigori, insomma. Grazie Dario Ricci dalla Francia, au revoir caro Dario, noi ci risentiamo brevemente alle 22.